Lunedì non lo sopporto, martedì mi sento morto, ogni giorno è uguale, giovedì sto troppo male, venerdì quasi perfetto, finalmente sto a letto, le domeniche le amo, ora ricominciamo.